Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Volodia, voce Wuming 1, musica elettronica Stefano D'Arcangelo. Registrato alla prima edizione del Festival di Letteratura della Working Class, al presidio GKN a Campi Bisenzio, venerdì 31 marzo 2023. Nel 2011, da Torino, mi arrivò una proposta da un laboratorio di, chiamiamolo così, una frana collettiva sul territorio, sulle periferie di Torino, che si chiamava Situa.to, Situa.to. Questo laboratorio aveva lanciato un progetto che si chiamava I muri di Mirafiori, che riguardava proprio i muri della gigantesca, storica fabbrica della Fiat nel quartiere di Mirafiori, in cui un tempo c'erano migliaia e migliaia e migliaia di dipendenti, oggi sono poche centinaia, e perché la progressiva dismissione di quel mega stabilimento aveva trasformato una porzione di quartiere di Mirafiori grande come l'intero centro storico di Torino in un territorio fantasma, solcato da decine e decine di chilometri di muri. Lo stabilimento separa Mirafiori Nord da Mirafiori Sud, ci sono delle vie di collegamento ma che sono cieche, chiuse, perché da una parte e dall'altra hai dei muri dello stabilimento. L'occasione narrativa era proprio quella di partire da quei muri. Pensarono noi qui e ci scrissero. Io ebbi l'idea di scrivere un racconto maiakovskiano ambientato alla Fiat di Mirafiori poco prima delle lotte dell'autunno caldo del 69. Quasi di getto scrissi questo racconto, che è una storia di fantasmi e di lotte operaie, e glielo mandai. Loro stamparono il racconto in libretto, questo libretto qui, ne stamparono 4.000 copie che poi distribuirono gratis nel quartiere Mirafiori. Poi mi chiamarono a leggerlo in pubblico, cosa che feci due volte, solo voce, tutto il pezzo. Andiamo avanti di 12 anni, Alberto Brunetti mi scrive chiedendomi una partecipazione, chiedendo a tutti i Wuming una partecipazione a questo festival. All'inizio una partecipazione pensata, diciamo, più testimoniale, venire a dibattere insieme ad autori di provenienza proletaria. Invece a me è tornato in mente quel racconto che si chiama Valodia e ho pensato di recuperarlo, di prenderlo in mano, l'ho riletto e mi è sembrato adatto. E nel frattempo erano successe tante cose. Anche per quanto riguarda il rapporto di Wuming con la lettura in pubblico, con la lettura musicata, con la lettura sonoritata, sono successe tante cose, abbiamo studiato tanto, io ho fatto anche un laboratorio sui risonatori della voce parlata con un attore bolognese che si chiama Matteo Berani e soprattutto da anni collaboro con Stefano e altri musicisti in questa band che si chiama Butter Clan, abbiamo portato in giro reading, concerti da un paio di libri miei, Un viaggio che non promettiamo breve, e la macchina del vento, ma soprattutto la grande novità è che da un po' di tempo a questa parte abbiamo fondato a Bologna Melologos, che è un laboratorio di fonologia narrativa, così lo chiamiamo, è proprio un centro in cui studiamo e proviamo a fare esperimenti sul rapporto tra voce, suono, musica e letteratura. Abbiamo già prodotto diverse cose che noi chiamiamo radiodrammi, non li chiamiamo podcast, perché podcast vuol dire tutto e niente. Queste cose che facciamo sono delle strane forme di radiodramma, perché poi appunto il podcast non è che la radio on demand, diciamo ce lo chiamiamo. E così ho chiesto a Stefano di leggersi il racconto e di immaginarsi una sonorizzazione. Stefano è andato ad attingere alle registrazioni originali della voce di Mario Costa, alle musiche dell'avanguardia sovietica dei primi anni, suoni industriali, e poi ha creato quella che noi chiamiamo la caverna dell'antimateria, che è appunto questo suono molteplice che avvolge la voce. L'abbiamo provata diverse volte, l'abbiamo registrata in studio, quindi è andata in onda tanto prima sulla radio bolognese, radio Cicco, penso che verrà trasmessa anche da Radio Mondadino domani, e anche in online, però stasera è la prima volta che la facciamo per me, e quindi buon ascolto. La poesia perde fatalmente ogni significato, non ne sapevo che il linguaggio, i padroni non gliel'hanno tolto, hanno troppo bisogno che lo conservino, ma l'hanno castrato per privarlo di ogni verità d'evocazione poetica, riducendolo al linguaggio degenerato del dare e dell'avere. Benjamin Perry, la parola avere, 1943. Obiettivamente descrivere un uomo del sistema, il burocrate, in cima alla calvizie, in basso i talloni, insomma un organismo come un altro, ma dentro al posto della voce è un apparecchio per il conio di alcune locuzioni. Vladimir Mayakovsky, Uomini artificiali, 1926. Le giornate furono diverse dopo che il poeta si accampò in fabbrica, che tra l'altro esattamente dove si accampò non lo sa nessuno. Non lo sapeva nessuno nemmeno allora, quindi al massimo tirare a indovinare, comunque non c'era dubbi sul fatto che dormisse in fabbrica, gettato in qualche altro stanzino o nella stanza chiusa, chissà quanto, qualche angolo dimenticato da tutti, doveva per forza dormire lì, perché nessuno l'aveva mai visto entrare o uscire. Invece sbucava nei reparti ogni turno, di giorno e di notte, con la giacca scalzonata, la camicia gialla che si potevano sbirciare gli alloni di sudore sotto le ascelle, tutto spettinato, la barba ormai di molti giorni, sarebbe un accattone, un vagabondo, con un bel portamento. Delle volte sbucava da un sottopassaggio, può darsi che dormisse lì, perché lungo quei cubicoli ci sono delle porte che chissà cosa c'è dietro. Ad ogni modo si piantava dove tutti potessero vederlo e declamava. E gira che ti rigira, prima o poi passava in tutte le sezioni. Aveva una vocina sguastante. All'inizio lo avevamo preso per matto. Gli avevamo chiesto, ma tu chi sei? Aveva risposto di chiamarsi Volodia, Valodia, una cosa del genere. Strano cognome che c'hai. Cos'è, calabrese? Di certo non calabrese, comunque compagno, ci fa piacere quello che dici, però dai, non stare a fare il matto, taglia la corda prima che ti cacciano a pedate. Lui però aveva detto, tranquilli, non mi possono vedere. E noi, non si deve dire, non ti possono vedere. Eppure era vero. Lo vedevano e sentivano soltanto gli operai. Non importava il cosa e il dove. Lo vedevano i gruisti, i carrellisti, quelli delle presse, quelli dei torni, della rastroferratura. Ma solo gli operai, non i capi squadra, non i capi reparto, né che viene in capo officina e i guardioni, figurarsi i pezzi più grossi che comunque non li vedevi quasi mai. E nemmeno quegli impiegati della palazzina che ogni tanto passavano con fasce di carte, di corsa, perdendo graffette. Cazzo, me ne ricordo quelle graffette, stavano ovunque, sul pavimento, dietro la porta, sotto le scarpe. Nemmeno i crudieri vedevano Volodia, benché fossero operai come loro. Insomma, tagliamo la testa al toro. Volodia lo vedevano e sentivano soltanto i compagni, per giunta senza distinzioni settarie, sindacato, ma non necessariamente, psico, gruppetari, non ricordo se li chiamavano già così, filo cinesi, qualcuno li chiamava già ML, e perfino Ameduri, che si definiva libero pensatore, e Pomenzi, che mezzo scherzando si diceva un comunista generico, cioè senza simile. Gli altri non vedevano Volodia perché non era nel loro mondo, punto. Ci sono due mondi, mica uno, e Volodia era nel nostro. Se c'era una donna grigia, operai che non erano compagni né merde, ma certo, solo che quando si va, anzi, si torna al dunque, ma davvero davvero al dunque, il mondo si divide in due, ci sono gli sfruttati e ci sono gli sfruttatori. Noi abbiamo capito più tardi che Volodia era lì perché il mondo della fabbrica tornava al dunque. Volodia era venuto a dividere il mondo in due e il sintomo era qualcuno lo vedeva, qualcun altro invece no. Una volta addirittura quella merda di Tirasco, un feldo maresciallo dell'Officina 22, era passato attraverso Volodia, come se il poeta fosse fatto di vapore. Era diventato evanescente per una frazione di secondo, poi quando Pilastro l'aveva superato era tornato come prima e pareva che manco lui se ne fosse accorto, perché non aveva perso una battuta del poema, stava dicendo «Anche Lenin ha cominciato dall'ABC!» e fai conto che filastro gli è passato in mezzo tra la A e la B. Quel giorno lì, devono esserci rimasti a bocca aperta, si va per dire, anche i pistoni e gli altri di motore. Siccome all'inizio una delle domande era, ma dov'è che mangia quello lì? Quello lì nel senso di Volodia, non di filastro. Perché di certo veniva la mensa. Bene, dopo quell'episodio di filastro, abbiamo capito che Volodia stava nel nostro mondo, ma non proprio come ci stavamo noi. Lui veniva nel nostro mondo e non andava in quello dei padroni e dei megaculli. Ma diciamo che, insomma, era nel nostro mondo, non del nostro mondo. Quindi, secondo noi, non aveva proprio bisogno di mangiare. Cos'è che hai detto? Ah sì, forse. Noi quella parola lì non l'abbiamo mai usata, spirito. Gli operai non parlano degli spiriti, almeno non a quei tempi. Gli spiriti sono roba da borghesi che fanno le sedute spiritiche, fanno ballare i tavoli e tutte quelle robe lì. Al massimo una volta ho sentito un tortitore che diceva fantasma, ma lo stava dicendo un compagno che era molto dimagrito, gli diceva pari il fantasma, pari ma mangi. Comunque dicevo, le giornate furono diverse dopo che Volodia si accampò a Mirafiori, e poi lo siamo venuti a sapere dopo che Volodia in russo è il diminutivo di Vladimir. Stanotte ho sognato Viktor Sklovska. Eravamo nord del Neri, vestiti di chiaro, sulla spiaggia. Il mare invitava a viaggi primordiali, viaggi sognati per lunghi mesi, quando eravamo freddi e poi scordati, ma ogni tanto come una scossa, un sussulto, barlumi di memoria pre-individuale, l'arca di Noè, la spedizione degli argonauti, la nave di Odisseo, il liquido amniotico, il mare era un invito a nascere di nuovo. Eravamo su un'isola a nord. Si parlava tedesco. Sklovski e io catturavamo granchi. Eravamo innamorati di qualcuno. C'è mai stata la rivoluzione. Vivevamo una parentesi di quiete. Sklovski era arrivato da Berlino. Io non so più da dove. Non eravamo soli. Non sapevamo ballare. La sera, nel salone dell'albergo, guardavamo le evoluzioni di madri con padri, padri con figlie già sposate, madri con figli adolescenti. Pensavamo alla Russia. Tutti i giorni, sempre, anche mentre catturavamo i granchi, o ci struggevamo per le amate. Correvano storti i granchi, le chele sembravano guantoni da box. Li rigettavamo nell'acqua bassa. La rivoluzione mi attendeva, sbuffante. Dovevo tornare, fare il mio dovere. Non ricordo come andò a finire. Ho un buco nella memoria. So che sono morto. Questo sì. So che questo è l'avvenire. Questo sì. C'è ancora lo sfruttamento. C'è il capitale. ci sono rumori infelici. Sono in Italia, non oso comandare della Russia. Farò anche qui il mio dovere di poeta. Ricordo il giorno della partenza del nostro treno, il sorriso triste, discloso. Ce la prendemmo comodo, perdemmo il treno, nel sogno questo non succede. Consigliere alla locomotiva, e Sklowski con me, da buon compagno, anche se andavamo in posti diversi. Catturai il treno, tornai puntuale all'appuntamento con la storia e con la sorte. A Sklowski, mentre correva, si ruppe l'orologio. Chissà se rimarrò sempre qui. Chissà se mi risveglierò altrove. Chissà se questo è un sogno. Non importa. Sogno o realtà, farò il mio dovere. Questi operai hanno bisogno di poesia. Era la primavera del 69, declamava i suoi versi per noi. Qualcuno dei compagni sospettava di conoscerlo. E dico che lui, ci sono i suoi libri, alla sezione di Corso Sicilia, c'è la foto. No, non so come si chiama, perché i libri sono i nostri, le lettere sono diverse tra le nostre. Ricordo che prima del cognome c'era scritto PD. Ma non ha detto che si chiama Volodia? Poi un compagno che un pochino ne sapeva, o meglio, aveva orecchiato qualcosa, disse che in russo la B si legge B, e allora il BB era il BB, e allora ci stava che il nome fosse Volodia. Ma glielo dobbiamo dire a quelli del partito che in officina è comparso questo tizio? Chiedevano i diversi. Si decise che era meglio di no. C'è da rischio che si è preso per male. E poi mica era detto che chi non lavorava in officina lo potesse vedere. Forse era lì solo per noi. Un giorno il compagno che dicevo prima portò il libro. In copertina c'era scritto proprio così. Come mi hai fatto vedere? Ma sì, cazzo, e mai è Koski? Disse qualcuno. Con un tono che nemmeno stesse parlando di suo fratello, come per dire ignoranti. Non lo conoscete mai Koski? Oddio, conosce, no? Ma in diversi l'avevamo sentito nominare, mai detto niente però. E di sicuro nessuno se l'ha mai aspettato di vederlo a Mirafiori. Continuò ad apparire fino a poco dopo l'autunno caldo, poi svanì. Nessuno l'ha più visto e nessuno ne ha più parlato. Te l'ho detto, c'era il rischio di essere presi per matti. L'ultima volta che l'ho visto, me lo ricordo, sì, c'era un corteo interno e... Volo di Tanzania. di tuoni con picchi e punte nelle bianche e rosse coccarde dei capisquadra. Compagni tamburi di navioni, compagni a corde, voi cingeli tentennanti come vitelli, sarchiate i capi e panno come erbacce, scrollate medagliette bianche e verdi, trascinate con voi chi non marciava. E voi sarchiati, compagni a forza, costretti a brandire bandiere vermiglie, voi pensavate, perciavate, pensavate per conto di Agnelski, guardatevi ora, ripetevate più case del padrone come tanti parrocchetti, mi vedessi adesso il parroco, che figura, già, che vi parlo a fare, perché mi rivolgo a voi, non mi vedete né sentite. Il corteo aspetta la fabbrica, attorno ai guardioni e tanto in cerchio. Agnelski, l'innocina, ce l'hai in officina. Oh, oh, oh, oh, Cilindin. Ricordo quel compagno alla vita, lo incontrai a Mosca, dal tempo che fa. Fosse solo per questo momento ce l'ha in movimento il potere e adesso si va aperto. Oh, oh, oh! La palazzina degli impiegati, due anni però infraciti, occhi di manifacio del vento cedono, strottonati, stanzonati, i uomini artificiali, i burocrati chic. Gettate, compagni, le monete da 5 lire, anche i delfini possono volare, è un mare, vi faccio attonita a guardarvi. Compagni, telefoni, non è più bello essere usati così da un operaio che chiama la mano la sposa rimasta al paese e tanto paga Agnelski piuttosto che per il profitto, piuttosto che per il mal tolto. Compagni, vi ringrazio perché da tanto tempo, non so nemmeno da quanto, non marciavo come ho marciato con voi, mi ritengo soddisfatto, la poesia è nelle cose, Valodia si addormenta e sorride. Ricordo che qualcuno lo scrisse sul muro di Cinta, il presente è quello di casa colorabile, qui è dormito Garibaldi per sballo, qui è dormito Rossini sorpreso da un temporale. Una mano anonima lo scrisse sul muro con un pennello rosso di notte. Il fantasma di Majakovskij ha riempito di poesia Mirafiori. Credo fosse passata nemmeno una settimana quando uscivo stanchi dalla fabbrica o direte ai cancelli per l'inizio del turno la lingua che sembrava uno straccio imbevuto di caffè, fosse giorno oppure sera, da dietro un parabrezza o stretti nei giacconi in attesa dei mezzi sui muri del quartiere cominciamo a vedere un'altra scritta, sempre quella, e ogni volta ci sembrava cambiare di posto, come se si spostasse da un muro all'altro o qualcuno, impossibile ovviamente, la cancellasse per iscriverla altrove. Dopo che hai conosciuto un poeta morto, è giunto un poeta morto compagno e ci hai fatto pure un corteo assieme, una scritta che appare e scompare, non ti sembra chissà quale mistero. Un paio di domande te le fai, chiaro, è una cosa che accetti e ti avanti. Comunque, non era mica un'allucinazione, quella scritta l'abbiamo vista tutti negli ultimi mesi del sole. La ricordo bene, diceva: quest'autunno cambia il mondo, la poesia e nelle strade. Non è vero che i poeti non scrivono per il popolo. I canti migliori vengono da questo accolti. I nomi si cancellano, cambiano le strofe, ma il canto viene cantato. Intorno a esso se ne crea un nuovo che poi ritorna al poeta. Viktor Sklovsky, Majakovsky. Volodia, voce Wooming 1, musica elettronica Stefano D'Arcangelo. Registrato alla prima edizione del Festival di Letteratura della Working Class al presidio GKN a Campi Bisenzio venerdì 31 marzo 2023. Alla linea, lettura del collettivo operaio GKN dall'omonimo libro di Joseph Pontus, registrata alla prima edizione del Festival di Letteratura della Working Class al presidio GKN a Campi Bisenzio, sabato 1 aprile 2023. Entrando in fabbrica, naturalmente immaginavo l'odore, il freddo, il trasporto di carri pesanti, il disagio, le condizioni di lavoro, la catena, la schiavitù moderna. Non ci andavo per fare un reportage, men che meno per preparare la rivoluzione. No, la fabbrica è per i soldi. Un lavoro per campare, come si dice. Perché mia moglie è stupida di vedermi buttato sul divano in attesa di lavoro nel mio settore. E quindi sarà l'agroalimentare, l'agro, come dico. Una ditta breve di produzione, trasformazione e cottura e tutto il resto, di pesci e gamberetti. Non ci vado per scrivere, ma per i soldi. All'agenzia interinale mi chiedono quando posso cominciare. Tiro fuori in dubbio la mia solita battuta letteraria e scontata. Beh, domani, all'alba, nell'ora in cui biancheggia la campagna, mi prendono la lettera, attacco il giorno dopo, alle 6 del mattino. Non sento più l'odore della fabbrica che all'inizio mi ristava le narici. Il freddo è sopportabile con un maglione pesante e una felpa o cappuccio, due buone paia di calze e la calzamaglia sotto i pantaloni. I carichi pesanti mi fanno scoprire i muscoli di cui ora ho resistenza. La schiavitù è volontaria, quasi felice. La fabbrica mi ha fottuto. Ne parlo solo dicendo la mia fabbrica, come se io, piccolo interinale che sono tra tanti altri, avessi una qualche proprietà delle macchine o della produzione di pesce o di gamberetti. Tra poco lavoreremo anche molluschi e crostacei, granchi, astici, grancevoli, aragoste. Spero di vedere questa rivoluzione, fregare qualche chela, anche se lo so che non sarà possibile. Già che non riusciamo a far uscire nemmeno un gamberetto, devi proprio nasconderti per mangiarne uno. Quando non ero ancora abbastanza discreto, la vecchia collega Brigitte mi aveva detto: io non ho visto niente, ma attento ai capi se ti beccano. Da allora traffico sotto il grembiule con il triplo paio di guanti che mi separano dall'umidità, dal freddo e da tutto il resto, per sgusciare e mangiare quello che considero come minimo un risarcimento in natura. Attaccare con il turno non può essere altro che questo immenso corridoio bianco, freddo, all'inizio del quale ci sono i marcatempo, intorno ai quali ci accarchiamo di notte all'ora di timbrare, le 4, le 6, le 7:30 del mattino, a seconda del lavoro assegnato. Lo scarico, cioè le casse di pesce da svuotare, la lavorazione del pescato o spellatura, cioè il sezionamento dei pesci, la cottura, cioè tutto quello che riguarda i gamberetti. Non ho ancora avuto la sfortuna del turno di pomeriggio o di sera, cominciare alle 16 e finire a mezzanotte. Qui sono tutti d'accordo, e sono d'accordo anch'io per adesso, che più comincio presto, meglio è. senza contare le ore notturne pagate il 20% in più. Così hai il pomeriggio libero. Se devi alzarti presto, altro è alzarsi presto. Col cazzo. Le tue 8 ore di lavoro sono 8 ore di lavoro, a qualunque ora del giorno. E poi, quando torni a casa, quando stacchi, torni, ciondoli, crolli. Pensi già all'ora da mettere sulla sveglia. Non importa che ora è, sarà sempre troppo presto. Dopo il sonno di piombo, la sigaretta e il caffè del risveglio divorato. In fabbrica, attacchi direttamente. È come se non ci fosse una transizione dal mondo della notte e rientri in un sogno, poi in un incubo. La luce dei neon, i gesti automatici, i pensieri che vagabondano. In un torpore di risveglio, tirare, trascinare, smistare, portare, sollevare, pesare, ordinare, come quando ti addormenti, senza nemmeno provare a scoprire perché i gesti e i pensieri si mescolano. Alla linea. È sempre un sorprendersi che faccia giorno all'ora della pausa quando si può uscire per una sigaretta e un caffè. Conosco solo pochi posti che mi fanno questo effetto. Assoluto, esistenziale, radicale. I tempi greci, la prigione, le isole e la fabbrica. Quando ne esci, tu non sai se ritrovi il mondo vero o se lo lasci. Anche se sappiamo che non esiste un mondo vero, ma poi a Apollo ha scelto Delfi come centro del mondo e non a caso Atene ha scelto la Corà come luogo di nascita e idea del mondo ed è una necessità. La prigione ha scelto la prigione che Foucault ha scelto. La luce, la pioggia e il vento hanno scelto le isole. Marx e i proletari hanno scelto la fabbrica. Mondi chiusi, dove si va solo per scelta, deliberata. E da cui non si esce, come dire. Non si lascia un santuario in tempo, non si lascia mai davvero la galera, non si lascia un'isola senza un sospiro, non si lascia la fabbrica senza guardare il cielo. Staccare dal lavoro, che bella espressione, la usiamo in senso figurato, ma capire nel proprio corpo, visceralmente, cos'è staccare dal lavoro e il bisogno di lasciarsi andare, di svuotarsi, di fare la doccia, per lavarsi via le squame di pesci, ma lo sforzo che ci vuole per alzarsi, andare a fare la doccia, quando sei finalmente seduto in giardino dopo 8 ore di linea. Domani, come interinale, il lavoro non è mai sicuro. I contratti sono di 2 giorni, una settimana al massimo, non è isolato, ma potrebbe sembrarlo. Vorremmo scriverlo, il 19° secolo è l'età dei lavoratori eroici. Siamo nel 21° secolo. Spero di attaccare. Spero di staccare. Spero di attaccare. Spero. Aspettare e sperare. È iniziata così. Io non avevo chiesto nulla, ma quando mi piazzo la mia postazione, un capo mi chiede se ho mescolato il troppo. Quando vedo il numero di ballet e ballet e ballet, vedo lo scolare da solo. E so già che mi ci vorrà tutta la notte, scolare tofu. Mi ripeto le parole senza crederci veramente. Stanotte scolerò tofu. Per tutta la notte sarò uno scolatore di tofu. Mi dico che sto per vivere un'esperienza parallela, in questo mondo già parallelo che è la fabbrica. La scena è questa. Sono 2:30 del pomeriggio. Ho appena finito la mia notte e sono andato a dormire verso le 8. Devo attaccare alle 8:30 di sera e staccare alle 5. L'agenzia interinale mi chiama, cambiamento di programma e di orario. Dalle 7 di sera fino alle 4:30, che se includo la mezz'ora di pausa quotidiana, fanno 9 ore e passa di lavoro. Non sarò i bastoncini di pesce, ma i piatti pronti, che sono un'altra condizione della fabbrica. Inizio a lavorare, scolo tofu. Mi ripeto questa frase, come un mantra, quasi come fosse una parola magica, rituale, una parola d'ordine. Una sorta di riassunto della vanità dell'esistenza del lavoro in tutto il mondo della fabbrica. Cerco di canticchiare tra me l'inno alla gioia del mondo in nero per motivarmi. Penso a Shakespeare quando dice che il mondo è un palcoscenico e noi siamo solo pessimi attori. Mi sembra di essere una parodia di un pezzo televisivo. Canto tra me mentre scudo dopo. Peccato non tornare indietro di 3 bastoncini di pesce. Penso che il topo fa schifo. E che se non ci fossero i vegetariani, non mi toccherebbe questo lavoro assurdo del topo. Invento giochi di parole che mi sembrano suonare bene. Scolatore di topi e tu la topi schifo. I gesti cominciano a diventare efficaci. Cutter, aprire la scatola da 20 kg di topo. Mettere i sacchetti da 3 kg circa, ciascuno, sulle tavolate. Cutter, aprire i sacchetti. Mettere il tofu in verticale su una specie di setaccio orizzontale, ghiacciarlo al cuore con il siero. Lasciare scolare il tofu per un po' di tempo. Scolo tofu. Una volta che il tofu è scolato, lo metto in un contenitore. Chiudo il contenitore con la pellicola trasparente e lo piazzo in un angolo del laboratorio, in attesa che venga usato per non so quale piatto. Non è più lavoro mio. Ogni tanto, i grandi sacchi, dove a mucchio di fiuti, scatoloni, sacchetti di plastica, li porto ai cassonetti esterni. Un intraspalle, mi piace andare ai cassonetti, tanto per cambiare. Le ore passano, non passano, sono persi. Sono in uno stato di dormiveglia, estatica, di veglia paradossale, quasi come quando ti addormenti e i pensieri vagano seguendo il lavoro dell'inconscio. Non ho un sogno, non ho incubi, non mi addormenti, lavoro. Scolo tofu. Ripeto a me stesso questa frase, come un mantra. Cerco il gioco di parole che mi è venuto prima, ma non mi viene più. Mi dico che bisogna avere una grande fede nella paga, che finirà per riversarsi nell'amore per l'assurdo o nella letteratura per continuare. Devi continuare a scolare tofu e ogni tanto andare ai cassonetti. La pausa arriva alle 1:10 del mattino, finirà alle 1:40. Non so se legare a fare pausa più di 6 ore dopo aver iniziato il turno, ma non mi frega. Rimarranno 3 ore di scolatore del tofu. Sigaretta, caffè, sigaretta, uno sneakers, sigaretta, un messaggio di mia moglie che pensava a me alle 11. Sorrido con tenerezza, se sapesse, ma è ora. L'ultimo tiro, tanto per dire, lo vedi fabbrica, lo vedi tofu, non avrai mai la mia ultima sigaretta e vaffanculo. Mi sbrigo a spegnerla, lo spogliatoio in fretta e furia, la divisa, il marcatempo, si ricomincia. Scolo tofu. Ancora 3 ore da tirare avanti, solo 3 ore da tirare avanti, bisogna continuare. Scolo tofu, continuerò, la notte non finisce. Scolo tofu, la notte non finisce più. Scolo tofu, scolo tofu. Non ne posso più, ma in fabbrica non una parola. È il fine settimana, non riesco a dormire. A quest'ora sarei alla linea. Mi resterebbe ancora 2 ore di lavoro. 2 ore di lavoro di merda, di catena, di linea. È il fine settimana. Dovrei rigenerare la mia forza lavoro, cioè riposare, dormire, vivere, fuori dalla fabbrica, ma non su, ma la stronza. Sono appena uscito di casa per fumarmi una sigaretta. Ripeto gli stessi gesti automatici della notte, durante la pausa, tirare una boccata dopo l'altra e accendere quella dopo col mozzicone dell'ultima. Ricomincio dopo domani. È come se fosse domani. Iniziare a prepararsi il ritmo del sonno, il ritmo della vita che la fabbrica ti impone. Devi andarci, devi dormire, devi. Non ne posso più di questa fabbrica, di sto ritmo del cazzo, le cose insensate che ti fa fare ogni notte. Non dirlo, scriverlo, mi fanno male i muscoli. Mi fa male quest'ora di pausa nella quale dovrei essere ma non sono, mentre mi fumo una sigaretta a casa. Sono ancora in fabbrica. Chi potrà portarmi in auto domani o dopodomani a lavorare di notte per il gusto dei giorni? È dura. Se non mi danno un passaggio non potrò più lavorare. Sarà la morte, sarà un casino. Vedrò come fare con i colleghi. Ma prima dovremmo parlare tra di noi. Nonostante i tappi alle orecchie, le macchine che martellano, i nostri silenzi durante la pausa, ma perché parlarsi? E poi di cosa parlare? Cosa dirsi? Che non ne possiamo più, che è una fatica prendere sonno nel fine settimana, ma che lo facciamo come se andasse tutto bene. Abbiamo un lavoro, anche se è di merda, anche se non riposiamo, guadagniamo dei soldi e la fabbrica ci consumerà e ci consuma già. Ma di questo non parliamo, perché in fabbrica è come in breve. Signore, non si parla, non si parla. Come si fa? Le nostre facce segnate alla pausa, i viti tirati, lo sguardo immerso oltre il fumo delle sigarette, le facce dal reggio. Se osassi fare un paragone con la grande guerra, nuovi reclute della fabbrica in attesa di tornare al fronte, o piuttosto mercenari, non cospiti di Maria Luisa, montati di volontari arruolati in una guerra contro la macchina, certo questo è in partenza, ma che almeno qualcuno ha pagato. La pausa, questa maledetta pausa, sperata, sognata, attesa, subito appena inizia il turno. Neanche se sarà comunque troppo tempo, se arriva troppo presto. Quante ore ancora da fare? Se arriva troppo tardi, non se ne può più, non se ne può più. Sarà. Il capitalismo più forte sa bene che per sfruttare al massimo il lavoratore bisogna accontentarlo solo un po'. C'è da fare quello che c'è da fare. Riposati per 30 minuti, piccolo lui. Hai ancora un po' di sotto. 30 minuti, io ho detto tutto. Il marcatempo ovviamente è prima un po' lo spogliato, a seconda se si finisce o si inizia da tutto. Cioè, almeno 4 minuti persi, se ti cambia il più corretto possibile. Il tempo di andare nella sala comune per il caffè, il corridoio e le scale che sembrano non finire mai. Il tempo per tutto. Caro Marcello, ho trovato quello di mandare la cintura, vieni in fabbrica per questo. Il tempo per tutto. Non avrai più bisogno di farlo tanto lunga. Finalmente all'aria, finalmente fuori, sigaretta, guardare l'ora sul cellulare, diciamo 20 minuti. Il rumore lancinante della fabbrica mi coglierebbe quasi. Alcuni si isolano, in aria, altri mangiano. Qualche spinello fumato lontano perché mi pare di sentire. Io sono seduto su una panchina e mi accendo una sigaretta rollata di tabacco, ma non si prende a tutti. Guardare l'ora che tutto il tempo che passa accendere un'altra sigaretta. Resta un quarto d'ora appena. Quanto tempo ci vuole per risalire, cambiare e andare a pisciare? Il carro ovviamente non può vedere che quanto assicurare un'ora prima o quella dopo. Deve aspettare un po', deve pensarci prima. Beh, non lo so, ma immagino. Di sigaretta diventano più nervosi, le occhiate cellulari non sono più frenetiche. Ma mano che il tempo passa, non più potremo. Via, bisogna andare. Cercare di piegare 30 secondi d'aria lì fuori sapendo che dovrei correre ancora di più tra corridoi, scale, spogliatoio. Ultimo tiro di sigaretta, l'ultima occhiata al cellulare, che bisogna andare. Penso sempre al mio compagnatore nero a questo punto, lo immagino con la pipa nella trincea, con prima del sole del fischietto, che pensava a lui. Io penso a mio mondo, mentre gli occhi fissi sul loro nome, e attendo più che sta mettendo la sua. Già 2 settimane è in cima e non so ancora da che parte prendere questi maledetti molluschi. Sembra una maledetta nera, appalata e viaggia la tristezza. Se non alla bella e meglio, alla linea e viaggiano i pensieri. Devo introdurre i cuccini nelle notte ventre di metallo, dove saranno cotti, senza attrezzatura. Mi faccio appalare. Ne parlavo con la mia parrucchiera oggi pomeriggio e cercavo di farle capire, mentre lo shampoo alla mandorla nei miei capelli faceva un buon profumo invece di quell'odore di mollusco morto. Ma la fabbrica è recente. Ma sì, però anche il tuo salone è nuovo, ma se non hai le macchinette per tagliare i capelli e hai solo le forbici e un rasoio degli anni 50, non fai mica lo stesso lavoro con un bigodino di merda e il resto alla vecchia maniera. Ah sì, cavolo. Quando i capi non ci sono, commentiamo tra noi. Beh, sì, è sempre la stessa roba. Hanno detto, non va bene. E che stanno arrivare a Natale. Stanno per arrivare le feste. E le macchine non funzionano. Capo, esci dal tuo ufficio e prendi la pala per 5 minuti nel laboratorio. E vedrai se il traspallet elettrico non arriva prima di subito. Sempre la stessa storia. Quelli che lavorano, quelli che comandano. I ritmi di produzione decretati dall'alto. Il collega è in gran forma oggi, è citato come un pidocchio cattivo. Si vede che la sua donna è tornata, aveva intenzione di fare un po' di spot da camera, mi diceva ieri. Stamattina ride. Racconta barzellette della sua infanzia e del migliore umorismo. Ci sono un nero, un bianco e un pisciolo da un ponte. Il bianco dice l'aria è fresca, il nero risponde anche l'acqua è fresca. Si sbellica dalle risate per più di un minuto. Più tardi, ancora tutto sorrisi. Cavolo bello mio, dovevi vedere il vasetto di yogurt che mi ha sparato. Se non mi conosceva, me e il mio mister. Ha detto che non ci avrebbe mai creduto. Che cazzo di vasetto di yogurt. Più tardi canta La Bohème a squarciagola per un'ora. La Bohème. Io vi parlo di un tempo che in questo momento non ha più valore. Vi parlo di mamma, dei fiori di lilla sbocciati alle finestre della nostra stanza piena di speranza e di un grande amore. Vittore vuole dire poco da mangiare, ma lei non finge le canzie mai. La Bohème, la Bohème significava felicità. La Bohème, la Bohème era la nostra bella età. Più tardi, quando torna a casa te la giuro subito e urlerà, te lo assicuro e urlerà. Urlerà. Un'operaia entra nel laboratorio, ci darà una mano durante il periodo delle feste e ci tiene a presentarsi. Lui le fa i suoi occhietti da gamberetto timido. Ero un marinaio pescatore. Vado a prendere un pallet di cuccini. Quando torno, lei non c'è più. Il collega mi si butta addosso. Hai visto l'etichetta? Che dici? La sbattiamo sul tavolo subito e le diamo una ripassata alla passera. Buona questa, le diamo una ripassata alla passera. Attonito. Non so cosa dire se non che mia moglie è perfetta. Per un attimo, gli stessi occhi di prima. Ah sì, vero, anche la mia è allora... Si alza nel laboratorio una risata sordida e grassa che mi gela più delle tonnellate di cuccini congelati che lavoro da settimane. Più tardi si avvicina di nuovo. Cosa fa la tua donna? Educatrice di ragazze con problemi. Ah, bene. È un bel lavoro che mi sarebbe piaciuto molto fare. Educare ragazze con problemi. Lo dice serissimo. Hai finito? Arrivederci, ha detto il capo a fine giornata, senza tante formalità. Non saranno 6 settimane di lavoro in molluschi e crostacei insieme a cambiare la mia condizione interinale. Dopo 6 settimane non sono nemmeno sicuro che sappia il mio nome. La stretta di mano dalla mattina alla sera e il suo magro sorriso quando vede che non manco all'appello, alla palla. Hai finito un 27 dicembre, l'inizio con i frutti di mare. Un 14 novembre, hai finito, timbrare a mezzanotte e mezza. I 6 giorni su 7 lavorati. Le macchine che si rompono già dal terzo giorno. quello che ti sei dovuto inventare per passartela un po' meno male. I bruci che cadono negli stivali, più fastidiosi ancora degli scrupoli, l'odore che non senti più. Hai finito, arrivederci, piccolo interinale, non ti abbiamo cazziato proprio, non hai preso giorni per malattia, o peggio per un infortunio, la produzione non si è mai fermata, arrivederci Fabio, arrivederci soldi, i soldi da andare a guadagnare, raschiare, spalare con le braccia, la schiena, i reni, i denti stretti, gli occhi gonfi e rossi, le mani ormai calvose, il muro, la testa che deve mantenere la volontà, fanculo, arrivederci, quasi non vedo l'ora già di tornare in fabbrica, come se non fossi ancora arrivato al limite estremo dello sfinimento, al limite del lavoro, al limite del mio lavoro, sulla fabbrica e me stesso. Hai finito, arrivederci, così ha detto il capo, uno dei capi in realtà. Non sono i capi che mancano, è il lavoro che manca, sono i soldi che mancano. Finché ci saranno lavori da interinare, non sarà possibile mettere il punto finale. Dovrò tornarci alla linea. Mia adorata moglie, quando leggerai queste parole sarò senza dubbio a letto, crollato, sognando chissà quale avventura. Tornerai a casa e troverai la casa come sommetterai in ordine io. Il computer con la tastiera oggi un po' devastato dalle zampe del cucciolo che mi ha regalato a Natale e che siamo andati a prendere a Granito. Mi sento come D'Artagnan in attesa di una nuova missione che rimugina e morde il freno nei corridoi del Louvre. Come me, qui nella nostra casa di Lorena, niente lavoro, ti aspetto un posto, le mie carte un po' più casa. E bianco per questi giorni di merda, senza lavoro, senza fabbrica. Oggi ho visto sul sito dell'ufficio di collocamento un annuncio per un educatore su una barca. Ho risposto, naturalmente, ho vantato la mia esperienza con i gamberetti e il pesce, anche se non serve a niente. Spero di lavorare su questa barca o in fabbrica, di portare un po' di soldi. Aspetto il lavoro, aspetto la partenza con l'arrivo della barca. Ti aspetto. Al mattatoio. Ci vado come chiunque andrebbe al mattatoio. È forse il culmine, il paradigma, la sintesi, il simbolo di quello che può essere l'industria agroalimentare. Eppure, quello che faccio io è solo pulire di notte un laboratorio di sezionamento maiali. Sezionatori che immagino intervengano dopo che i macellatori hanno fatto il loro lavoro. I pesci e i vicini, i piatti pronti e tutto il resto che è stato mi sembrano oggi innocui, carini, sdolcinati. Devo pulire una linea di sezionamento. Restano solo le tracce del lavoro della giornata degli operai. Arrivo col mio tubo. Tutto è rosso di sangue e bianco di grasso. Passo il getto per il prelavaggio. Un collega passa la schiuma che lava, io risciacquo. Un collega passa il prodotto che rilava e non fa schiuma, ma ci costringe a mettere le maschere antigas per via dell'odore e del pericolo. Io risciacquo. Ultima meticolosa pulizia, mettiamo in ordine, fine del lavoro. L'agenzia interinale mi ha chiamato alle 4:30 lunedì per un lavoro quella stessa sera alle 8. Come tutte le altre fabbriche, non gliene frega di chi sono io. Due braccia e basta. Non ho mai tenuto in mano un tubo per la pulizia industriale, non so nemmeno fare le pulizie in casa mia. Non è un problema. La fabbrica è enorme, mostruosa. La porta si apre, il laboratorio mi sembra grande come tutta una delle mie vecchie fabbriche. Sangue, dappertutto. La prima cosa il sangue, e poi brandelli di maiale, dappertutto. Grugni, costole, zampe, grasso di maiale, dappertutto. Mi dicono una cosa che aspettavi, amico mio. Te lo avevano detto che avresti dovuto pulire un mattatoio. Il capo mi mette in mano un tubo, mi fa vedere un pezzo della linea di produzione e mi dice: questa è la tua area, ci vediamo tra due ore, un ragazzo poi passerà la schiuma. Azione il tubo, questo appare è un incubo, mi impegno, cerco di fare più veloce e meglio che posso, il capo ritorna, certo che faccio cazzate, sputo sangue, nel vero senso della parola, e lo sento in bocca, sangue di maiale, spruzzi e schizzi del getto ad alta pressione. Alla pausa nello spogliatoio, specchi belli, puliti e consumati, tutti si guardano e si puliscono in silenzio. Alcuni colleghi addetti alle pulizie raccontano che nei locali gli operai del giorno non hanno nemmeno tolto la merda. Capisco dalla conversazione che puliscono il posto dove gli animali aspettano, prima di essere uccisi, e che la merda va intesa in senso proprio. Mi considero fortunato con il mio sangue di maiale. Penso di aver pulito bene, ma non basta mai. Il capo si accorge che ho lasciato un pezzo di grasso traslucido della dimensione di mezzo cubetto di pancetta in un ingranaggio nascosto da una piastra. I colleghi mi insegnano il lavoro paziente e determinato, a me, l'incapace della polizia, e mi aiutano, fraterni, quando il capo non c'è. Quando finiamo, torno nello spogliatoio, mi lavo di nuovo la faccia, tirollo qualche sigaretta nel corridoio senza fili che porta fuori dalla fabbrica. Torno in macchina, alzo il volume dell'autoradio al massimo, guido nella notte per raggiungere mia moglie, che dorme. Tra meno di un'ora, gli addetti all'abbattimento inizieranno il turno. Io avrò raggiunto mia moglie e cominciato la mia notte. Addio, com'è bella la guerra? Ha scritto Gula dal fondo della sua trincea. Militore di trincea, militore di mattatore, ma se lo stesso. Mi sento come se fossi in guerra, i brandelli, i pezzi, l'equipaggiamento necessario. Il sangue. Ora mi avvicino. Non sono più al maiale, ma al buio. È quasi in prima linea, o peggio, nel cuore delle linee vivute, nel locale per scarti. Appena mezzo piano sotto il macello, cioè, pulisco gli scarti di tutto ciò che non serve, del buio, e che viene gettato da un ammezzato di sopra, in enormi tubi, dentro enormi vasche, che pulisco con il getto ad alta pressione. Tante vasche quanti sono tipi di scarti. Pezzi che non riesco a identificare, mascelle, corna, zoccoli anteriori, zoccoli posteriori, a volte orecchie non nervose, che ancora non è di identificazione della riva. Altre parti del corpo gocciolanti, che preferisco non sapere, ma se io ero senza dubbio vari stomaci, erano meglio. A volte scarti, che erano bloccati nei tubi, cadono per effetto del getto, allora è una valanga di tutta la suddetta roba che precipita e fa un gran splash. From the guns flash. Attenzione a non trovarsi sotto il tono quando cambia di zoccoli. Le corna sono come grandi ossetti che si sparpagliano su tutto il pavimento della fabbrica. E le mamme, porca puttana, come delle specie di piccoli palloncini d'aereo. Buona fine. Ti eviti del corpo dell'animale, appena ucciso. A volte scoppia quando cade a terra. Mi esce un video di arcastra, puzza di amare, di morte, di paura, dell'animale macellato, e ancora tempo. La merda, non riesco, anche in un lavoratore specifico. Immagino che sopra ci sia quella che chiamano la trappola, il posto dove gli animali vengono portati e aspettano, poco prima di attraversarlo. Hanno paura e sentono la morte arrivare, cagano, è normale, io riesco, è il mio lavoro. Il lavoro che ho ascoltato con orrore durante la pausa della settimana scorsa. Tre notti che lo faccio. La prima notte è stata atroce, ma adesso va meglio. Ci si abitua, anche se le novelle sono una cosa oggettivamente da più schifosa quanto di tutte altre. E ancora tiride, proprio la prima, è pulsa quando scoppiano. E ho sentito che il mattatore corre bene. Vedremo. E poi ci si abitua, tutto qua. Non voglio credere che la mia guerra è bella. Un ammezzato sotto il macello, a pulire la merda e non merda. Continui incubi martellanti, ripetitivi, quotidiani. Non una pennichella, non una notte senza questi brutti sogni di carcasse, di animali morti che mi cadono addosso, che mi aggrediscono atrocemente, che assumono il volto dei miei cari e delle mie paure. incubi senza fine, senza vita, senza notte, svegliarsi soprassale, perciò la frange di sudore, quasi ogni notte, a volte urlo, tutte le notti so che morderò il matatoio nei miei brutti sogni, eppure a spingere i miei qualche di carne da 100 chili, non credo di essere quello da combattere di più. Cosa sognano tutte le penichelle, tutte le notti, quelli che sono le frattaglie, e quelli che tutti i giorni che il matatoio fa, vedono cadere le teste di vacca dal piano di sopra, prendono una testa alla volta e la fissano tra le zanne d'acciaio di un apposito macchinario, tagliano le guance, le labbra, poi buttano via le mascelle e il resto del corpo, 8 ore al giorno faccia a faccia. Cosa sognano quelli che sono alle cuoia? È così che chiamiamo quelli che strappano le pelli degli animali, subito dopo che sono stati macellati. Le pelli saranno poi vendute ai cacciatori o non so chi. Pare che questo lavoro sia estremamente. E gli interinari votino con le palle di lumini a vento nei giorni di tempesta, tante loro fisicamente e moralmente strappare pelli di vacca tutto il giorno. Cosa sognano quelli che sono ai ferri, dato che ogni qualche di animale è marchiato con un numero di macellazione identificatore unico, tracciabilità, marchiano la carne dell'animale dopo che quelli delle cuoie hanno fatto il loro lavoro, cambiano un numero a ogni animale. E sì, è uno degli incarichi in fabbrica, persone che per lavoro passano ore a marchiare gli animali con un ferro rovente a cambiare le targhette del numero tra una macellazione e l'altra. La prossima settimana ho un appuntamento con il fisioterapista. Il mio corpo comincia pian piano a essere devastato da questo mese e passa di carica. Tutto il mio corpo, muscoli, le articolazioni, l'occhio, la cervicale e il resto del mio corpo di cui non so nemmeno il nome. Il corpo è una tuba per l'anima, dicevano massima degli antichi greci, e mi rendo conto che anche l'anima è una tomba per i corpi. I miei dubbi sono soltanto all'altezza di ciò che il mio corpo sopporta. Cazzo di sciopero! Così ci tocca fare gli straordinari tutta la settimana, per recuperare il ritardo di oggi. Questa mattina non c'è quasi nessun dipendente al lavoro, naturalmente i soliti interinali, e non il casco rosso di un capo che manchi all'appello. È inevitabile che tutto vada con lento. Ragazzi che non sanno far funzionare le macchine, azionare le leve giuste, fare gli scambi giusti di binari, le carcasse se le staranno ridendo e assaporano la vendetta posta. Fanno una gara per cadere, una quindicina al giorno, un inferno. I resti ufficiali del diritto del lavoro stabiliscono che è vietato stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato per sostituire un dipendente il cui contratto di lavoro è sospeso a causa di una controversia collettiva di lavoro. Eppure vediamo lavoratori interinari o operari assunti a giornata, e chi se ne frega delle leggi. I vecchi del mattatoio raccontano anche che ai bei tempi gli interinari facevano picchetto davanti alla fabbrica insieme agli operai dipendenti, braccio con i quali, barbedù con tagli di carne scena, birra al litro. Purtroppo oggi le cose sono chiare, lavoratore interinare in sciopero, che è comunque un suo diritto, e ciao ciao. Logica padronale evidente. Mi viene chiesto di iniziare il turno in anticipo. Siamo un bel po' di braccia, rotte dal lavoro precario. Per fortuna, io sono alla mia solita postazione. Sogno di essere in sciopero, come quando avevo un lavoro vero e non rischiamo niente. Sogno di poter andare alla manifestazione, ma so che quando tornerò a casa sarò troppo esausto. Sogno i miei colleghi assunti a calduccio nel loro letto, che senza dubbio saranno rispettati quando tra poco sfileranno in corteo con le loro bandiere CGT Mattatoio. Una bella orda di scioperanti con la forza delle braccia e dello sguardo. Mi sarebbe piaciuto essere con loro e mettere sotto pressione gli sbirri davanti alla prefettura. Sarei stato così felice di essere tra questi illetterati che Macron disprezza, tra quelli che non lavorano per pagarsi un vestito, ma un paio da Decathlon, visto che il freddo in cui lavoriamo è così forte. Sogno di essere parte di questa forza collettiva e di ridere sui perdigiorno che lui presume che siano. Ehi, mano, non vorresti mica con noi domani mattina a spingere un po' di carcasse che ci facciamo quattro risate insieme? Oggi non ne va dritta una. Non ne va dritta è un eufemismo. Un nuovo nastro trasportatore decide di entrare in sciopero anche lui. Gli unici tre meccanici che sanno come funziona sono in sciopero anche loro. Cazzo di sciopero. Restano solo due ore da tirare al meglio e devo finire di tirare, portare, spingere, trascinare una sola forza delle braccia. Prego San Carlo, che il crumiro che posso sembrare non venga condannato sull'altare della rivoluzione industriale. Le mie braccia resisteranno. Spero che anche lo sciopero resista. Avanti, Valls! C'è questa poesia di Apollinaire nelle trincee che mi ossessiona per la sua bellezza e precisione. C'è una canzone di Vanessa Paradis che è stata la seconda del ballo al nostro matrimonio che ho canticchiato tutto il giorno. C'è un bastimento che ha portato via la mia madre. Ci sono nel cielo sei dirigibili e al cadere della notte sembrano verdi da cui nasceranno le stelle. C'è un sottomarino nemico che ce l'aveva con il mio amore. C'è la la la, se ci prendessimo il tempo, se ci prendessimo il tempo. C'è la letteratura, la mancanza di slancio, l'inerzia, il movimento. C'è il tuo compleanno in questo giorno di sabato. C'è il mattatoio dove tu arrivano al mattino e il collegio femminile dove tu finirai alle 11 di sera quando io sarò già a letto da me. C'è questo regalo da scriverti. Ci sono barche nella strada che aspettano di essere uccise domani o primo mattino. Ci sono bambini venezuelani e malgasci che preparano corone di gamberetti surgelati. C'è Pietro che rinnegherà tre volte Gesù stanotte prima che il gallo canti, ma giura ancora al suo maestro di nonna. Ci sono fiori e un pacchetto di tua suocera che ti aspettano a casa. Ci sono gli addetti alle pulizie che usano i prodotti chimici con le loro maschere antigas, come ogni giovedì per pulire il frigorifero dei perni in cui ho lavorato oggi e che abbiamo svuotato per l'occasione. C'è che avevo la forza oggi che ho caricato senza fatica dal gancio la cinquantina di agnelli che sono stati ordinati per Pasqua. C'è la fabbrica di bastoncini di pesce che va avanti senza sosta, con tre turni di 8 ore e uomini e donne là dentro che stanno già aspettando il cambio che arriverà alle 8 di sera in punto. C'è il nostro amore. C'è il nostro cane, Poc Poc, che sonnecchia tranquillo sul divano dopo la nostra passeggiata. C'è nessuna voglia di preparare da mangiare, nessun posto per parcheggiare vicino al panificio per comprare il panino e quindi sarà prosciutto e di varò senza pane. C'è un addetto alla stalla che pulisce gli escrementi delle vacche che aspettano di essere uccise domani. C'è una lombata, patatine, salsa vermenza che ho mangiato a pranzo a mensa con una badoffa per 4,85 euro che mi saranno detratti dallo stipendio. Ci sono persone che a quest'ora del giorno mangiano bastoncini di pesce, gamberetti o bistecche senza immaginare. C'è che sapendo io mangio bistecche. C'è che tutto questo è abbastanza macabro e di fronte a una così orribile vocazione non so cos'altro aggiungere. C'è che non ci vedremo per la tua festa, ma domani per un weekend di 3 giorni e mezzo. C'è il coro finale della passione secondo Matteo Di Bari, che sto ascoltando mentre ti scrivo queste parole. C'è del pane secco che ho appena trovato per farmi un piccolo panino. Ci sono le mie unghie sporche, il mio corpo consulente che non sento più e la doccia che non ho ancora fatto. C'è l'amore che mi trascina con dolcezza. Ci sono uomini nel mondo che non sono mai stati infatti con guerra. Ci sono là i misteri, i silenzi. C'è che domani parlerò caro questo testo scritto così tardi. Ci sono fabbriche che non conosco e che producono fagiolini, armi, patatine, automobili, nitrato, cioccolato in polvere, stoffa, carta pesta o carta d'armena e tutte le persone che sono dentro. C'è il mio mal di schiena e la stanchezza, così come la gioia. C'è che bisogna mettere questo punto finale alla linea. C'è questo regalo di compleanno che sto finendo di scrivere. C'è che non ci sarà mai. Anche se trovo un lavoro vero, ammesso che la fabbrica sia uno falso, cosa di cui dubito. C'è che non ci sarà mai un punto finale alla linea. C'è che non ci sarà mai un punto finale alla linea. C'è che non ci sarà mai un finale alla linea! Alla linea, lettura del collettivo operaio GKN dall'omonimo libro di Joseph Pontus, registrata alla prima edizione del Festival di Letteratura della Working Class al presidio GKN a Campi Bisenzio, sabato 1 aprile 2023. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con l'autrice e attrice Leonora Danco per presentare il suo spettacolo Ragazze al Muro al Teatro Vascello a Roma dal 4 al 7 aprile 2023. Ben trovata. Ben trovato Federico, ciao. Che spettacolo è questo? Che lavoro è? Questo è un lavoro che volevo festeggiare il compleanno dei 26 anni. È il mio primo testo in assoluto che ho scritto appunto 26 anni fa, che ho portato in scena tra l'altro a San Lorenzo, un quartiere a cui siamo molto affezionati sia io che te, proprio in un locale che adesso ha riaperto da poco che si chiamava il DDT. Poi da lì partì e ebbe subito un grande impatto. Lo feci in tanti teatri in tutta Italia e poi non l'ho più ripreso da allora. Quindi, dato che l'ho pubblicato recentemente nel libro Tempi Morti con Giulio Perrone Editore, ho messo proprio il mio ultimo testo detersivo e sono arrivata a finire il libro con Ragazze al Muro, che era il mio primo testo, ho pensato, visto per queste quattro sere del Teatro Vascello, di ripresentare questo lavoro nella sua forma completa di un testo a due personaggi, appunto. Quali erano le sue caratteristiche? Questo è un testo che era molto d'impatto, molto diretto, molto libero, era già un po' un segno forte di quello che poi è stato tutto il mio percorso, che è insomma, c'era proprio il segno di quello che poi è il mio modo di comunicare, il mio linguaggio, e quindi è questo testo astrazione, perché una parte di questo testo ho preso spunto per fare quel personaggio Famia, ti ricordi? Sì. E questo è l'embrione da cui è nato quella cosa, nella sua forma completa però. Questa ragazza alla fermata dell'autobus con un'amica giovane, a cui lei farà perdere l'autobus. Non sanno niente del mondo, della vita, ci sono delle votazioni infernali, perché a questa ragazza mazza non si sa come, la prendono pure a fare la spintatrice. E poi non sa che cos'è un reparto di ginecologia, non sa niente della vita. C'è una pomiciata in un cinema che mi ispirò molto la lettura di Pasolini, che è quel libro Una vita violenta, che c'era una cominciata nel cinema che mi folgorò, la descrizione di questi due attorcigliati dentro a questo cinema. E quindi scrissi questa scena un po' ispirata a quello. Lei va al cinema con dente avvelenato. Lei non sa, dice, un film mai sentito, un film mai visto, si chiamava De Sé, De Sì, mi pare. Perché non ha proprio cognizione di dove si trova. Ed è una periferia senza tempo, perché è in astrazione, ecco. Lo rifai modificando qualcosa? Ho dovuto togliere giusto veramente due cose, ma veramente la cosa che mi ha colpito soprattutto del testo è che nella sua interezza non ho dovuto cambiare nulla, sembra scritto ieri, e mi fa molto piacere che lo possano vedere magari il pubblico di giovani che mi segue ultimamente, perché molti saranno più giovani di questo testo, eppure è un testo che è molto d'impatto, arriva, e questo mi rende orgogliosa di questa cosa, sì. E per chi sta al tuo fianco, chi hai scelto? Ho scelto una giovane ragazza del Centro Sperimentale di Cinematografia, secondo anno, se lo sta ancora frequentando, che ha fatto un mio seminario, si chiama Beatrice Bartoni, è una ragazza che stimo molto, una giovane attrice al suo debutto, proprio in assoluto al suo battesimo teatrale, e quindi sono contenta di stare in scena con lei. Come lo ha vissuto lei il suo testo? Il testo le è arrivato subito in maniera molto d'impatto e anche le prove si sta molto impegnando, chiaramente il linguaggio teatrale è un linguaggio potente, quindi si sta mettendo molto in gioco. Ma sempre in scena con me il ruolo principale è questa Sonia, è molto molto interessante, mi faceva piacere rilavorare insieme ad altri, cosa che farò anche a breve nel prossimo autunno. Tornando a un tuo lavoro di 26 anni fa e guardando il tuo percorso, cosa vedi? Che differenze vedi? Che continuità o anche che scarti? Vedo tante cose, sicuramente ho una forma molto di rispetto per questo testo, perché chiaramente il primo testo segna il tuo inizio, quindi ho iniziato secondo me in un modo molto d'impatto e poi tragicomico. Chiaramente il mio percorso artistico è cambiato, nel senso che sempre partendo da lì però si è rarefatto, capito? E lavoro ancora più sulla rarefazione della trama, insomma ho fatto un percorso di studio, però questo testo non è così distante, anche qui si sente fortissima, seppur in modo diverso, la traccia di tutto il mio lavoro, perché anche se ho dei meccanismi più formali di dialogo, ma per modo di dire, conserva una forma di anarchia e di libertà e soprattutto di studio sul linguaggio, che è molto fantasioso, che è interessante, perché non è un romano datato, è un romano che è come se fosse una lingua reinventata, quindi non ha tempo. La cosa che mi fa piacere è che riesce a essere comunque divertente anche dopo 26 anni e questo è buono per me. Ci dai tutti i tuoi riferimenti internet per saperne di più? Potete seguire Danco Teatro su Instagram, Eleonora Danco su Instagram, Facebook Compagnia Eleonora Danco oppure Eleonora Danco, Teatro Vascello. Lo spettacolo Ragazze al Muro a Roma, Teatro Vascello, dal 4 al 7 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, attrice Eleonora Danco. A presto. Grazie. Ciao, grazie, vi aspetto, grazie. Ciao, ciao a tutti, grazie. Ciao. Con l'attore Enrico Salimbeni per presentare il suo spettacolo Pari e Patta, storia di un tenore, testo di Matteo Manfredini. A Roma, allo spazio OFF, in piazza San Cosimato 39, mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 21. Ben trovato! Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Raccontaci di questo lavoro. È un lavoro che stiamo presentando con stupore del pubblico, perché raccontiamo la storia di Luciano Pavarotti ma in maniera diversa. Non si parla di gossip, non si fa una cronologia dei suoi successi, ma si va a scoprire e enfatizzare un personaggio unico e irripetibile, un uomo baciato da un talento unico, perché comunque sia ancora oggi la voce di Pavarotti è inconfondibile, anche se tu la metti in mezzo a mille tenori, la voce di Pavarotti la distingue. Quindi un talento unico, una vita segnata anche da episodi che lo hanno portato ad essere quello che in realtà noi non conosciamo. Quando l'autore, che è Matteo Manfredini, mi ha proposto di raccontare la vita di Pavarotti, io sono rimasto anche un po' così, perché fondamentalmente noi di Pavarotti abbiamo un'immagine che è già quella finale, cioè lo stereotipo di lui con le braccia larghe, il frac, la pancia, il sorriso stampato, poi tutti quanti gli artisti del mondo che lo seguono come se fosse un'icona, no? E quindi non riuscivo a capirlo questo perché, sinceramente. Conoscendo la storia si capisce che in realtà quest'uomo ha veramente avuto una vita prestigiosa, mantenendo però questa sua caratteristica, questa sua emilianità, che lo ha contraddistinto anche da altri tenori, magari con pari capacità o comunque similari, ma che non avevano il carisma. E quindi quando la storia viene raccontata la gente partecipa molto, molto positivamente. Cosa ti ha convinto del testo? Quello che non sapevo, cioè la notorietà è qualche cosa che si può paragonare a un involucro. Qualcuno noto dice, ah sì, è famoso, ma non sai bene il perché. Siamo andati a scoprire invece quello che la gente piano piano scoprirà, come un evento, una casualità, una particolarità o una volontà precisa abbiano portato quest'uomo ad essere l'italiano più famoso al mondo e ancora oggi, dopo anni dalla sua morte, ancora lo è. Sembra ancora attuale, quindi quando ho letto la storia mi sono innanzitutto affezionato, poi ho sentito anche la sua voce in maniera diversa, era veramente particolare, E quando lo abbiamo fatto, già dalla prima volta abbiamo visto la gente partecipare durante lo spettacolo, in alcuni momenti sorridi, e il finale è anche, diciamo, proprio commovente, perché la fine arriva per tutti. Quindi arriviamo proprio allo spegnimento di questa grandiosa fiamma che è stata poi gloria dell'Italia. Ci si affeziona a lui. Quali sono gli elementi di questa personalità che più ti hanno impressionato? Beh, innanzitutto la sua sfrontatezza, perché lui ha sempre voluto questo impeto. Fin da bambino lui voleva cantare, voleva esibirsi, voleva avere un pubblico davanti a sé, che era l'opposto di suo padre, perché anche suo padre era un tenore. Ecco, il parallelo interessante è questo: anche suo padre era un tenore strabiliante, probabilmente con le sue stesse caratteristiche, ma non aveva il carisma di Luciano. Quindi suo padre è rimasto un tenore locale con una voce memorabile, che però è rimasto lì a fare il fornaio. Lui invece aveva il carisma, era baciato da un talento unico che si riscopre anche in alcune situazioni della sua vita, anche simpatiche, divertenti, come quando venne chiamato alla Scala per la prima volta a fare un provino. Lo racconto nella storia, è una cosa simpatica, la gente non la sa, eppure è successo. Quindi questo suo impeto emiliano, questo suo parlare inglese con un accento fortissimo, utilizzando un gran lo di italiano e inglese, però riusciva comunque a farsi voler bene, a essere ben visto persino dalla principessa Diana. Insomma, lui era veramente amato e ricercato da tutti, tutta la gente voleva stargli vicino, era una sorta di calamita, anche perché era bello possente, diciamo, la forza di gravità l'aveva imponente per attrarre gli altri. Questo è, senza svelare nulla della storia, che poi in realtà è fatta di aneddoti, di episodi, di step vari che lo hanno portato ad essere quello che è, secondo me già è esauriente per incuriosire, dire, fammi ascoltare chi era veramente Pavarotti. Rispetto al testo, come hai pensato la messa in scena? Qual è il rapporto tra appunto il palco e la pagina scritta? È assolutamente neutro. Io racconterò questa storia davanti a un leggio, perché per buona parte necessita anche di una lettura, perché comunque la lettura ti permette una narrazione anche differente. In altre parti comunque, io comunque il testo lo conosco bene, però la mise en espace, che è questo tipo di spettacolo che io farò, è una sorta di incrocio fra una messa in scena e una lettura, è una lettura interpretata, e dopo un po', quando la gente entra dentro, il leggio non lo vede neanche più. Però se non ci fosse il leggio, sarebbe necessario uno spazio diverso, dei movimenti, perché altrimenti uno rimarrebbe lì impalato per un'ora. Invece no, in quel modo tu sei lì, hai un leggio davanti che ti consente di avere una tua motivazione nello stare fermo, e la gente poi parte. L'altra sera abbiamo fatto una replica di uno spettacolo che però in realtà era un altro, ma sempre una mise en espace, e un signore è venuto lì commosso, perché questo era un altro spettacolo, ma era commovente. Mi ha detto: sai che a un certo punto io ho chiuso gli occhi e poi ero entrato in quel mondo che tu raccontavi. E la lettura scenica, la lettura interpretata è proprio questo: se è fatta bene ti fa entrare in un mondo, cioè non hai una regia che ti dice quello che succede e che tu segui, ma hai la tua personalità, la tua cultura, la tua immaginazione, la tua sensibilità che ti portano nel mondo che io ti sto raccontando. Quindi mi sono fatto solamente con la volontà di non recitarlo, ma di interpretarlo, cioè di essere lì, di essere presente, come se fossi il suo amico di fianco che racconta agli altri, gasato, chi è Pavarotti. Ecco, io sono il suo amico gasato. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sul tuo spettacolo? Ci guazzo poco sul web, in realtà metto solamente online su una pagina Facebook mia personale. Quando farò gli spettacoli ci sarà nello spazio che ci ospita mercoledì, di cui tu sei egregio presentatore e attivista, è La vita eccezionale e irripetibile di un uomo dal talento. Lo spettacolo Pari e Patta, storia di un tenore, testo di Matteo Manfredini, a Roma, spazio Off, piazza San Cosimato 39, mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 21. Un saluto e un ringraziamento all'attore Enrico Salimbeni. Ci vediamo lì! Un saluto anche a voi, e grazie a te personalmente, perché sei bravissimo, molto attivo, e ci si trova molto bene con te. L'autore e interprete Claudio Morici sul suo spettacolo 46 tentativi di lettera a mio figlio, a Roma, Fortezza Est, dal 6 all'8 aprile 2023. Claudio, ben ritrovato. Ciao, grazie. Questo 46 tentativi di lettera a mio figlio, ce lo presenti un po'? Sì, dunque è un po' diverso

È un festival di riciclo creativo, quindi ci sono opere d'arte, installazioni realizzate con materiali di scarto, recuperati dalle discariche oppure semplicemente che sono parte dei consumi dell'artista, che mette da parte, conserva, rigenera e trasforma, veicolando una filosofia ecologica e sostenibile attraverso l'arte. L'arte è per noi un mezzo per raccontare questa sensibilità, questo prendersi cura dell'ambiente e anche lanciare un allarme sulla crisi climatica ed energetica in atto attraverso comunque una riformulazione della bellezza di questi oggetti. Quest'anno quanti sono gli artisti, le artiste presenti? Quest'anno è una grande compilation, nel senso che abbiamo chiamato a raccolta tutti artisti delle passate edizioni, più dei nuovi, ci sono anche artisti colombiani, indiani e spagnoli, oltre 50 artisti, uno spazio molto grande, ci saranno anche performance e attività con le scuole, è un programma molto ricco dal 6 al 16 aprile. Gli orari? Martedì, mercoledì e giovedì dal 9 alle 13, mentre il fine settimana, da venerdì alla domenica, orario continuato dalle 9 alle 19 con ingresso gratuito. Quali sono gli oggetti riutilizzati e con quali elementi della crisi climatica si stanno confrontando? Gli artisti quest'anno hanno lavorato, insomma, ognuno con il suo materiale prezioso, quindi ci sono dei murales realizzati con le bottiglie di plastica termofuse, quindi un'opera di street art che però riprende anche la tradizione del mosaico, perché ogni bottiglia corrisponde ad una tessera del mosaico. Poi c'è un'installazione sempre con la plastica che invece è aerea, sono dei delfini realizzati con la plastica che inquina i nostri mari, che fluttuano sospesi in questa enorme sala che è la vaccheria. E poi ci sono molti artisti che lavorano con il ferro perché provengono da laboratori dove svolgono il loro lavoro e poi con i pezzi residui del lavoro, che poi appunto è il lavoro che gli dà da mangiare, per cui non vorrebbero sprecare quel materiale che considerano appunto una risorsa, nonostante sia uno scarto, e realizzano sculture anche umane, quasi a raccontare insomma come l'uomo poi attraverso la tecnologia si stia somigliando insomma a quel materiale, no? Come l'uomo si stia in qualche modo contaminando con il materiale di cui si circonda. C'è un artista che ha portato un telo termico, quei teli che vengono collocati sui ghiacciai per preservarli dallo scioglimento. Lui fa un'indagine fotografica su tutti questi teli che ormai ricoprono appunto questi spazi naturali per preservarli dallo scioglimento dei ghiacciai, e uno di questi teli è qui presente, perché poi cosa succede? Che dopo anni che sono stati collocati, hanno svolto la loro funzione, smettono di svolgerla, quindi sono usurati e devono essere sostituiti. Per cui abbiamo anche proprio un oggetto che ci racconta, no, una funzionalità fondamentale studiato da tecnici, che però può diventare anche poi un simbolo per anche un allestimento differente. Quindi ammirando questo telo, che ha una forma molto conturbante, possiamo semplicemente trovarci di fronte alla maestà di questo enorme paesaggio che ci immaginiamo debba essere in qualche modo protetto. Ci dai tutti i riferimenti internet? Noi abbiamo pagina social, quindi RiscartiFest, dove c'è l'evento con tutte le attività e le specifiche ad ingresso gratuito. Poi c'è anche la nostra pagina web www.riscarti.com, dove pubblicheremo le foto delle opere, le interviste con gli artisti e gli aggiornamenti di questa edizione che sta per iniziare. Decima edizione del Festival Riscarti a Roma, La Vaccheria, dal 6 al 16 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice e direttrice artistica Marlene Scalise. A presto! Grazie a te, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Eccoci all'agenda per gli appuntamenti della settimana, soprattutto per quanto riguarda il teatro, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone! Ciao a tutti, buon pomeriggio! Abbiamo pochi appuntamenti da poter ricordare, almeno pochi appuntamenti di un livello tale, insomma, per lo streaming che cerchiamo di adoperare qui in trasmissione, insomma, ormai da sempre. E quindi, insomma, andiamo a vedere quello che ci offre la settimana. Dunque, come di consueto, partiamo dal nostro amico Teatro Torbella Monaca, perché insomma da lì poi piano piano ci avviciniamo a prendere tutta Roma, quindi insomma lavoriamo dalle periferie verso l'interno, ma poi è tutta una questione anche di prospettiva, eh? Non è detto che Torbella Monaca sia la periferia, se tu guardi dall'altro lato consideri periferia e centro e viceversa, quindi insomma è tutto una questione di punto d'osservazione. Ma ci dovessimo arrivare, fossimo da quelle parti, questa settimana andremo a vedere il 7 e l'8 di aprile questo Fiori d'acciaio, spettacolo di Robert Herling, con Tosca d'Aquino e Martina Colombari. Ecco, e poi altri attori, Martina Rifonte, Gianni Spaziani, Rossella Pugliese, Stefania Micheli, insomma, un po' di attori sul palco. Fiori d'acciaio è una commedia di sentimenti, ironica, con protagoniste le donne, anche perché finora insomma abbiamo espresso esclusivamente nomi al femminile sul palco, la regia di Michela Andreozzi, con appunto insieme a Massimiliano Vado, l'occasione di costruire una banda di soliste in grado di suonare insieme, ma di insomma in qualche modo essere anche individualiste nel momento giusto. E sono personaggi tratteggiati con molta ironia, insomma, per chi avesse questo desiderio, è al Teatro Torbella Monaca 7 e 8 aprile. Mentre invece andiamo anche al Teatro Parioli questa settimana per un appuntamento che sarà in scena ancora, perché io sono libero, sarà in scena ancora oggi e domani, con la supervisione artistica di Piero Vaccarinelli, che ne è appunto il direttore, Pallida Madre, Tele la sorella, un lavoro, sono delle letture sceniche a cura dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, l'istituzione culturale Zizzon, con le letture di Manuela Mangracchia, Francesco Bonomo, Riccardo Flori, Lorenzo Lavia e Silvia D'Amico, insomma, grossi nomi del teatro italiano e non solo. Si tratta insomma di serate dedicate alla drammaturgia tedesca moderna e contemporanea, quindi insomma quella sarà l'ispirazione. Per quanto riguarda invece altri teatri, al Teatro Belli 5-6 aprile, per andare a vedere Ricordate che eravate violini, meditazione notturna per una voce sola. In scena c'è Giorgio Sales, e con la musica in scena di Lorenzo Sabbene, che suonerà il liuto, la fiorba, la chitarra, ma non il violino, che appunto invece soltanto nel titolo, saremo al Teatro Belli con la regia di Francesco D'Alfonso, e c'è una frase in calce: ecco dove mi ha condotto questo sogno, aspettare in questo giardino una morte che mi fa paura. Ci sono testi tratti da tantissimi autori, da Borges, Alda Merini, Mario Luzzi, Schmidt, le musiche di Bach, di André, di Ravel, insomma vari autori che cercano di comporre una sorta di concerto in meditazione notturna per voce sola, 5-6 aprile al Teatro Belli di Roma. Poi ancora, già partito la settima edizione di questo Fuori Norma, nuove forme del cinema italiano, diciamo, perché insomma ci sono davvero cose interessanti, anche perché poi te dico insomma tu sei un po' sul confine tra i due mondi, e lo segnalo anche perché diciamo ci sarà anche Pippo Del Bono, che poi è un rappresentante del territorio teatrale internazionale, insomma, a partire dall'Italia ma internazionale. Ci saranno 20 proiezioni di opere d'arte prodotte o coprodotte in Italia negli ultimi anni, quindi insomma questa settimana il festival Fuori Norma, con la cura di Adriano Aprà, presenterà insomma allo Spazio Scena, che nel quartiere Trastevere, via Orti da Liber numero 1, che poi se non sbaglio c'era anche il cinema, no? Di Trastevere, no, quello piccolo Bodoni, non ricordo, però insomma c'era una sala cinematografica da quelle parti, dalla mia memoria, che ogni tanto fa i buchi. Ma insomma, questo da ricordare perché ci fa piacere poterlo dire. E anche perché, se proprio dovessimo andare a cercare qualcosa sparsa in giro per l'Italia romano, non è che troveremo troppo. Anche è vero che qualcosa c'è, Fabrizio De André, Marinella, e il testo di Salvatore Ricci, Cristian Pagliucci, al Teatro Spazio dal 5 all'8 aprile, una storia ispirata, insomma, al personaggio, ai personaggi del cantautore giapponese Fabrizio De André, che prende il nome, diciamo, da uno dei personaggi simbolici e più iconici della sua produzione. Ancora uno spettacolo da ricordare, il Teatro dei Servi, Mary di Filippo Maria Macchiusi e la regia di Alessandro Cecchini in scena, Teatro dei Servi da 4 a 9 aprile, quindi da questa sera, ed è un testo che parla d'amore, di un amore da sogno, ma anche di un amore concreto e tragicomico, perché no, insomma, quello tra Filippo tra Filippo Federico e Mary, appunto la donna in bilico tra le due relazioni possibili. Questo per un po' di cose da ricordare, ma un paio le ricordo in più, anzi tre, diciamo. Venerdì 7 aprile andremo al Centrale Preneste per Variabili, questo lavoro con la regia di Marco De Rossi. Sono due ragazze, sorelle, amiche, chissà, che vivono un'essenziale quotidianità di parole non dette, missioni, fastidi e piaceri, insomma, come tutte le persone che si conoscono molto bene. C'è un mistero però tra di loro che lascia intravedere degli atteggiamenti inconsueti, e questo è quello che andremo a vedere venerdì 7 aprile al Centrale Preneste in data secca. Per ciò che riguarda invece forse i due lavori che la settimana offre con maggiore evidenza, Ragazze al muro di e con Eleonora Danco debutta al Teatro Vascello da questa sera fino al 7 di aprile. In scena c'è anche Beatrice Bartoli insieme appunto alla stessa Danco. Si tratta di un ritorno di Eleonora Danco, un testo, due personaggi, visionario, comico. Siamo una fermata dell'autobus, che diciamo un po' è uno dei luoghi iconici dell'autrice, in una strada abbandonata e poco identificabile, se non fosse per il prato di cicche e le tracce di cicche, cartacce nel vento, la tenere Coca-Cola, volantini elettorali. Questo è l'immaginario in cui Sonia e Maria si incontrano aspettando l'autobus. Andiamo a vedere qualche cosa ci diranno. Questo è il primo testo di Eleonora Danco, scritto nel 1996, e che ritorna appunto in scena dopo 23 anni dall'ultima replica, quindi molto interessante, potete andare a rivedere oggi, insomma, a distanza di un bel po', grande repertorio, insomma. Mentre invece alla Portenza Est, 6 e 8 aprile, uno spettacolo bellissimo, 46 tentativi di lettera a mio figlio, io con Claudio Morici, è un spettacolo ironico, divertente per identificare la storia di un padre che cerca di mettersi in relazione con il suo figlio, con quello che sarà il futuro, e andrà così in una sorta di crisi di identità, con la sua maturazione, la sua capacità, insomma, di giudicare l'operato fatto da uomo adulto fino a quel momento. È molto, molto bello, molto scioccante, profondo. 6-8 aprile, 46, tentativi di lettera a mio figlio al Teatro della Portenza Est. Ultimissimissima cosa che ricordo, per l'8 aprile alle ore 19, che è appunto questo sabato, andremo a vedere l'esito di un laboratorio di teatro integrato di Fabiana Iacozzilli alle ore 19 al Teatro Quarticciolo. Molto interessante, Piccole donne crescono, che coinvolge insomma giovani attori e attrici in un percorso di inclusione legato soprattutto ai disturbi alimentari e obesità. C'è un centro specializzato che partecipa, anzi due centri specializzati che partecipano al progetto, e questo lavoro ovviamente è uno studio sulle piccole donne di Luis Bellalcott, che appunto andremo a vedere l'8 aprile alle ore 19 al Teatro Quarticciolo. E con questo è tutto, ma quello che è tutto è anche perché, essendo appunto la settimana di Pasqua, il Teatro di Roma non offre praticamente nulla, quindi ci trovate progetti che vanno insomma dal 12 aprile in poi, e noi aspetteremo, si aspetta sempre. Ciao a tutti, buon pomeriggio.